want to begin by first of all, of course, saying I wish you all a wonderful, powerful, strong and revolutionary 8th March. Thank you. Some of the concepts that we want to touch upon today. Alcuni concetti su cui vorrei lavorare, il primo dei quali è la questione del nesso Stato-popolo, che oggi è talmente stretto che facciamo fatica a pensare altre nozioni come libertà e democrazia senza riportarlo allo Stato. Eppure questa connessione, ad esempio per il Medio Oriente, non ha più di un secolo di vita. The development of humanity, but actually, for example, for the Middle East, it is less than 100 years old. So, in order to have a fruitful discussion, prima di decostruire la nozione di Stato e liberare la democrazia dalla nozione di Stato, vorrei fare un brevissimo accenno alla storia di questo concetto. Allora, quella che vedete qui a sinistra è una parola accadica o sumerica che risale a circa 3.000 anni fa, 4.300 anni fa, e significa libertà e suona amarghi. È una parola che ci dà l'occasione di togliere una prima idea che rende lo stato naturale, cioè che ogni civiltà, nello svilupparsi, nel nascere e svilupparsi, automaticamente produce lo stato. Invece lo stato ha un inizio. Cerchiamo di capire dove e come lo stato ha avuto inizio e come patriarcato e quella forma di organizzazione di economia che è il capitalismo sono andati insieme a questa nascita. First state-like institution developed in Mesopotamia. La prima forma di Stato ha origine in Mesopotamia e prende la forma architettonica e spaziale dello ziggurat, che erano delle costruzioni di tipo piramidale, quindi molto gerarchiche, no? Che evocavano la gerarchia. Infatti è lì che si configura la prima società suddivisa in classi, dove i sacerdoti acquisiscono il monopolio sulla produzione, sull'attività di produzione, sulle attività riproduttive, sull'interpretazione del senso della vita, e contemporaneamente nascono istituzioni, si istituzionalizzano anche la schiavitù e la proprietà privata. So interestingly, in this context, well, before the societies, the communities were more egalitarian. Allora, prima di questa configurazione che si realizza attraverso lo ziggurat, le società, la vita in comune era più ugualitaria, che non significa che si trattasse di società perfette, ma c'era una maggiore uguaglianza e una più grande partecipazione delle donne alla vita comune. La cosa interessante è che il concetto di libertà nasce dopo queste società, questa forma, nasce nel momento in cui si costituisce una società che legittima la gerarchia, le classi e il monopolio del sapere e di altro. E quindi la libertà, nel momento in cui diventa una parola, viene evocata, è libertà in un ordine in cui comincia a diffondersi un altro grado di schiavitù e di oppressione. Amarghi, quindi questa parola, libertà, significa due cose: liberazione dal debito e ritorno alla madre. Amarghi also means two things, it means the liberation from debt. Quindi vediamo che le premesse, gli inizi, insomma queste origini, connettono la nascita del capitalismo da intendersi come quelle economie e rapporti basati sulla proprietà privata e il debito, la centralizzazione dell'amministrazione nella forma dello Stato e il patriarcato, cioè un dominio gerarchico degli uomini sulle donne, nascono insieme, sono connessi. E questo questa connessione è qualcosa che, su cui molte autrici hanno lavorato e rivelano essere caratteristiche comuni in diverse parti del mondo. Go hand in hand. And this has a 5,000-year-old history. So what's interesting to analyze would be first the connection. Vorrei lavorare sul nesso sapere e potere che è molto discusso da numerosi filosofi, in particolare sulle radici storiche di questa connessione. Il secondo punto è quello della separazione delle comunità dai processi decisionali. Siamo abituati all'idea che ogni periodicamente attraverso il voto deleghiamo la nostra volontà a una elite e quindi dobbiamo registrare che la democrazia è concepita in un modo che non implica un potere di decisione. La delega di questo potere è naturalizzata, cioè la consideriamo ovvia, la consideriamo qualcosa che non ha alternative, perché nei miei studi Thomas Hobbes era uno dei principali autori della tradizione del pensiero politico e Hobbes ci dice che l'uomo, per l'altro uomo, ogni individuo è una minaccia, no? Homo homini lupus. E quindi dà un'idea della natura umana, dell'umanità, come una natura ostile, aggressiva, che quindi necessita di un controllo e di una forte limitazione. Ma questo in realtà è un movimento secondario attraverso cui lo Stato ha giustificato se stesso, perché, come vi dicevo, sono esistite altre forme di convivenza che non rimandavano alla gerarchia e al controllo. Oggi noi consideriamo lo Stato come una realtà normalizzata, cioè una realtà che è necessariamente connessa alla modernità, al progresso e alla democrazia. E così ci sfugge il fatto che è proprio attraverso lo Stato che si innescano processi antidemocratici, vengono dichiarate guerre e si hanno varie forme di oppressione e di schiavitù delle donne. But these are man-made, and I say man-made because usually it was men who were the only ones in the position of making these decisions. These colonial borders were just drawn like rulers in a very geometric way. Se guardate alle carte del Medio Oriente, vedete che le frontiere sono dritte, sono delle linee geometriche, e anche in Africa. E sono dei prodotti maschili, vorrei dire maschili perché effettivamente sono stati tracciati storicamente dalla parte maschile che costituivano i governanti, la classe dei governanti. Si tratta di frontiere coloniali che hanno delimitato in maniera artificiale il Sudan, l'Egitto, l'Iraq. E poi su questi spazi sono state applicate le leggi coloniali, i cui effetti noi vediamo all'opera ancora oggi. Quest'anno ricorre il centenario del trattato Sykes-Picot, che ha stabilito le frontiere, le nuove frontiere nella zona medio orientale, tracciando anche il confine tra Iraq e Siria. Ora, queste frontiere non sono mai adeguate. Come diceva il professore, è un altro di quegli istituti che non sono in grado di descrivere la realtà contemporanea, non sono adatti alla popolazione, non sono organici alla popolazione. In questi nuovi stati si è poi innescata una nuova colonizzazione, una nuova fase di colonizzazione, perché il governo di questi stati è stato affidato dalle potenze internazionali a delle elite locali. E ora noi vediamo che questo tipo di operazione produce i flussi migratori che sono sono oggetto di una incapacità di governo anche da parte degli organismi internazionali, proprio perché hanno avuto questa origine che è passata sopra la realtà delle popolazioni di queste regioni. Also, I forgot to mention that although they have always, like for the last thousands of years, they have been centralized, state-like or empire-like institutions. Ho dimenticato di precisare che la fase di centralizzazione in forma statuale o imperiale che ha riguardato gli ultimi periodi storici è particolarmente ideologica, perché diversamente da altre forme di potere istituito che faceva riferimento al re, ad esempio, all'imperatore, la forma dello Stato-nazione si basa sul popolo, sulla nozione di popolo e sulla pretesa autolegittimante di rappresentare il popolo. Quindi è un concetto che ha delle caratteristiche molto precise e è strettamente connesso all'ideologia nazionalista, sciovinista.